so cos'è normale poi. Un bacio tu o casa in riva al mare, io che sogno poi di vivere senza niente ma con te per ridere. Chissà se poi saprò guardare lì con gli occhi tuoi che fanno innamorare. Io ti dico che io resto qua, saremo grandi con la stessa musica che ci fa poi dormire qui. Io riesco a sentire che tutto intorno a me è facile insieme a te. E se tu mi guardi, io so che va tutto attraverso e poi tu fermi tutto il tempo che scorre dentro me e rimane quando io penso che. E so che se posso crescere, che se a volte ho freddo dentro, io non ho paura se poi tu rimani qui adesso per sempre con me. Poi dirò cose che nessuno mai ha saputo di me, saprai ascoltare tu. Perché sei quello che per me ha dato un senso a tutto questo vivere. Domani quando la vita si renderà ancora ogni giorno più grandi, e se ti guardo penso che non ho paura a invecchiare, perché poi ti guarderò come avessi per sempre 30 anni. E scriviamo pagine con tutte le immagini da dentro la testa. Che bello amarsi e fissarle lì dove tutto si ferma. E se